Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. E si torna in diretta per oggi 12-12, martedì 12 dicembre, 7:48 minuti, quindi il Breakfast Club procede con un last minute che ci porta in scena. È un last minute perché inizia esattamente oggi per quanto riguarda questi diversi incontri accurati dal Teatro dei Venti. Con noi oltretutto vi è chi ha portato la curatela della drammaturgia di questo spettacolo di cui parleremo. Abbiamo tirato giù dal letto Azzurra D'Agostino, è qua con noi. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno. Allora, Festival Trasparenze di Teatro Carcere, la terza edizione. Siamo a Modena, lo spettacolo ha un titolo molto particolare. Io poi sono appassionato di mito. Io sono Cassandra. Cassandra è questa figura che viene addirittura allontanata in quanto portatrice di notizie nefaste, di visioni nefaste, no? Viene allontanata per questo motivo, ma alla fine poi, accidenti, a volte si dice non vorrei essere Cassandra, ma secondo me, e poi puntini puntini arriva una previsione non bellissima. Ci puoi dire qualcosa di più a proposito di questa scrittura teatrale, Azzurra? Sì, allora il lavoro è nato all'interno della casa circondariale di Modena, Sant'Anna, e coinvolge delle detenute, quindi è nella sezione femminile. E quando insomma si ragionava su che proposta fare a questo gruppo di persone, mi è venuto in mente proprio Cassandra, non tanto nella figura di chi porta sventura, ma più nella figura di chi proprio perché dice la verità è un reietto, comunque è un profeta, è uno dei pochi profeti inascoltati, delle persone che appunto restano magari rimangono le straniere, è una donna ed è una straniera ed è marginata ed è allontanata per questa sua capacità di dire la verità, perché quello che poi dice si realizza. Infatti lei non è portatrice, lei semplicemente vede lo oltre. Lo vede prima, esatto. Quindi il lavoro si sviluppa da questo, nel senso che ovviamente fare quello che si fa è teatro, per cui si cadono tutte le pareti intorno del luogo in cui si è e si lavora sulla tematica, sulle parole. Io le parole le ho abbinate a un linguaggio poetico il più possibile, nel senso che l'oracolo, quando ti dice la verità, quando ti dice la risposta alla tua domanda, è sempre una lingua criptica, qualcosa che devi interpretare, qualcosa che devi trovare in te stesso. La risposta non è mai una cosa chiara, quindi la poesia in questo, evocando delle possibilità più che dire un'unica questione, riesce ad avvicinarsi insomma a questa possibile lingua profetica. Certo. Per cui io sono Cassandra, questo gruppo di Cassandre che sono al momento per una fase comunque anche nella condizione umana, no? Dico, di far venire la voce da un punto molto preciso che ha a che fare con un essere in un margine in un qualche modo, e quindi interpretano tutte un'unica Cassandra, cioè come un coro di... Sì, scusa se ti interrompo, ma stavo pensando, intanto che ne davi così una narrazione per anticipare gli incontri, per presentare un insieme, cioè tante Cassandre, non c'è un ruolo solo interpretato, ma sono diverse. È come un coro. Esatto. Sì, esatto. Che ha la stessa, che è, infatti io sono Cassandra, è perché qualcosa che ripetono le Cassandre dello spettacolo più volte, sono io Cassandra. Perché ogni volta che prendono parola manifestano, certo, l'essere quella figura. Certo, e rivisto chiaramente, anzi proiettato poi come il mito è tutti i tempi, anche in questo caso con delle figure che stanno vivendo un'esperienza di restrizione, certamente con una visione, un'emozione, una sensibilità ulteriormente acuta. Ci puoi dire le date, quando sarà, come, allora, dove? Allora, il debutto è oggi e alle 18 presso proprio in carcere saremo. Quindi purtroppo il carcere ovviamente ha delle regole per cui devi farti autorizzare prima, certo. Per questo motivo non è possibile oggi decidere ok vado perché, immaginavo però mi sembrava giusto dirlo. Sì insomma, certo, per... quindi sarà oggi, domani e martedì, mercoledì, giovedì, sono tre giorni fino al 14 alle 18 c'è questo incontro in carcere che è aperto sia a pubblico interno, quindi detenuti e detenute, che a pubblico esterno che si è prenotato nelle settimane scorse. Sì, ho voluto dare queste precisazioni, ovvio che ci sono delle chiare palesi restrizioni, però per completare la nostra conversazione secondo me sono informazioni, certo, ovviamente dovute. E possiamo mettere un pochino di musica, poi rientriamo e avremo modo di parlare anche di emozioni. Azzurra, possiamo staccare due minutini, a tra poco, grazie. Supreme, no punks on my team, I'm a skunk fiend, living the legacy of kings, right in Brooklyn, New York, I walk the Babylon soar like I'm royalty, yeah. Black boy war stories, complete loyalty to my peoples, I speak through street poetry and lethal dosages, black plastic, explosives, guns and roses, all of my best friends are soldiers, chocolate Nick bag indulgence, Bob City. Last Minute di oggi ci riporta in diretta dopo l'Hip Hop che stiamo ascoltando dei Bop City e concludiamo la nostra conversazione ricordando che già da questa sera ci sarà Io Sono Cassandra nella Casa Circondariale di Modena, curato Festival Trasparenze di Teatro Carcere, giunto alla terza edizione. Con noi Azzurra D'Agostino, ci sei Azzurra? Sì? Sì. No, allora in conclusione, in queste ultime battute, le emozioni delle protagoniste. Ma il percorso è stato abbastanza intenso e intensivo, nel senso che abbiamo iniziato in autunno a lavorare con appuntamenti prima sporadici, poi sempre più intensivi fino a fare due settimane di prove tutti i giorni. Ah, però. E sì, che è un'esperienza abbastanza forte anche per chi, certo, entra e magari si fa 20 ore di carcere alla settimana, 30 ore di carcere, è comunque qualcosa che non che mette tutti in una condizione diversa, come dire. E fra protagonisti ho messo anche voi, cioè, certo, proprio. sì, infatti forse la più ecco, magari quello che ho notato è una grande instabilità, nel senso che sono gruppi che spesso si sfaldano, si ricompongono, sì. C'è chi viene trasferito, chi viene inserito poi, chi ha assente perché c'è il colloquio, chi c'è l'avvocato, insomma non è un magma complesso anche a livello organizzativo. In questo teatro dei venti è molto tenace e paziente nel portare avanti questi percorsi. E poi quello che succede però è che stando in ascolto, dato che le parole sono nate dentro quella situazione, sono pensate per quelle persone, in qualche modo sono in ascolto di quella violenza anche che c'è, inevitabile in una struttura di detenzione, ha riverberato qualcosa che si percepisce nel loro poter prendere parola, ecco, e poter dire davanti anche un pubblico ristretto finora come siamo stati noi, no? Sì. Di poter dire delle cose in un altro modo, ma che sì, risuonano. Questo è stato molto potente anche nel percorso, cioè il venire a confronto diretto con loro, che l'attore interessato che ti viene proprio a dire mi suona, mi emoziona, ecco, sì. A teatro succede questo. Poi portato sul palcoscenico, un palcoscenico particolare, la curatela di Teatro dei Venti, il Festival Trasparenze Teatro Carcere per la terza edizione. Si inizia questa sera alle ore 18, io sono Cassandra. Io ti ringrazio, Azzurra, e ti auguro una buona giornata. Grazie, anche a te, un saluto a tutti. Ciao. Breve pubblicità, poi si inizia ufficialmente con il Move to Groove di oggi, martedì 12 dicembre, con noi già Marco Dorici, che magari avete ascoltato e sentito ieri sera nel palinsesto di Radio Città Fujiko. Balla e difendi, ma prima domanda che farò a Marco, io da pessimo difensore, insomma, difendere non è mica tanto divertente, quindi c'è ben poco da ballare, ma lo scopriremo nel dettaglio poi dopo lo stacco pubblicitario sui 103.1, anche se parleremo di una o di esposizioni riguardanti la F Scudata in sala borsa, emozioni, mostre, contenuti, sport, tanto al Mood Groove di oggi, a tra poco sui 103.1.